Non parleremo di indie media, ma occorre partire dai fatti ormai noti, del sequestro dei due server e delle conseguenti reazioni. Che sia stata la FBI nutre tanto antiamericanismo, che si sia spenta una fonte di teppismo mediatico nutre il cupo teppismo politico, che sia stata spenta una fonte di informazione indipendente riempie la bocca di una veloce approssimazione che dimentica troppi fatti. Una cosa è certa, mentre l'informazione internet è in subbuglio, l'informazione ufficiale tace. Indie media, nel suo anonimo modo di stare al mondo, è un muro di strada su cui mettere svastiche o graffiti, poco di più. La verità è che Indie Media, accanto a molto teppismo da svastiche, ha anche pubblicato pregevoli graffiti. Potremmo fare nomi e cognomi, non li facciamo perché crediamo nell'alleanza di chi vuole fare informazioni senza secondi fini. Esistono giornalisti di grande testate che lavorano con Indie Media aperto mattina, pomeriggio e sera. È ovvio, non c'è di che essere allegri di questi tempi, pochi parlano l'arabo e ad andarci in Iraq si corre il rischio di far la fine di Baldoni. È molto più sicuro starsene su Indie Media a prendere notizie. In fondo è nobile anche il mestiere di colui che screma, che valuta se una notizia sia svastica o affresco. Il problema subentra quando Indie Media, o l'ipotetico Charlie di Indie Media, diventa il secondo fonte internet, o ancora peggio, nome e cognome dell'articolista della grande testata che pubblicherà e darà credibilità alla notizia. Per questo oggi la stampa ufficiale tace, ignora Indie Media e internet tutto e consente che il vandalismo politico non distingua tra svastica e affresco. E la paura di ammettere, è vero, io attingo proprio da lì. Ma questo teorema, di cui, ripeto, si possono citare molti esempi precisi, alcuni anche costruttivi, dimostra una cosa, che internet può essere una fonte affidabile ed è al giorno d'oggi incensurabile. Anche sopprimendo i server, sono convinto che il servizio in questione è già riprodotto altrove, come tutte le informazioni che quei due server contenevano. E se anche poi tutti i siti fossero vietati, tutti i server sequestrati, tutti i blogger arrestati, rimarrebbero le mail e le liste di distribuzione. Insomma, è impossibile arrivare ad una censura, ci si prova, ma le vie di fuga sono infinite. E questo è il punto centrale, la potenza di 5.000 indirizzi ed una persona che dice cose abbastanza sensate da essere letta. Questa è la novità assoluta e ingestibile. E questa novità non è politica, morale o legale, è semplicemente tecnologica. E questo è l'elemento che sfugge ai censori di internet, la dimensione assolutamente apicale dell'ingestibilità, l'impossibilità assoluta di censurare. Detto questo, comunque, sia consentita un'opinione personale, il bello di internet non sono le svastiche, ma sono gli affreschi. Ed è quindi giusto preservarli, non a livello museale, forse capiterà anche questo, ma è giusto preservare la possibilità che gli affreschi possano continuare ad esistere, ad essere prodotti, che possano continuare ad essere fonte, malgrado tutto il fastidio che può provare Dick Cheney per tutto quello che è stato scoperto e diffuso su di lui, sulla Halliburton e sulla Bechtel. E per fare questo serve una dichiarazione deontologica della pubblicazione, non un ordine dei giornalisti, non una registrazione in tribunale. Nessuna di queste cose potrà anche solo limitare il teppismo da svastica. Serve un'etica riconosciuta e riconoscibile, di cui si è responsabili, appurato che non c'è alcun mezzo coercitivo efficace e solo ed esclusivamente alla responsabilità e civiltà del singolo che ci si può appellare. Dice, anima ingenua, no, tecnologica. Il limite è la tecnologia. Faccio un esempio concreto. Riccardo Rioles, un giornalista, con cadenza regolare, manda semplici messaggi, senza complicazione tecnica di sorta. Sono messaggi email e fa informazione, autorevole, rispettabile informazione. E 10.000 iscritti ricevono e vogliono ricevere da un indirizzo email gratuito, di quelli che si fanno da un internet point, un giornale completo, non registrato, dietro cui c'è un solo nome. Ecco, se la stessa cosa la fa uno svasticaro teppista, viene isolato e se anche si procura per un qualche maneggio elettronico la lista di distribuzione di Orioles, viene cancellato senza essere letto, viene poi censurato dal lettore stesso e dalla sua attenzione. Quindi trovo importante che la discussione inizi una discussione che abbia come frutto un codice deontologico dell'informazione online, un codice della qualità, basato sul mutuo riconoscimento e sull'attenzione di tutti al rispetto delle regole, con conseguente estromissione di coloro che non ritengono opportuno seguirle. Tito Gandini, reporter associati per Amisnet.